io sto per vedere se era tutto attaccato bene. Va bene, d'accordo. Allora lascio stare così, poi domani intanto lo uso quando la sera, va bene. Ma di ultima sotto la stessa. Più che ultima, va bene, va bene. Ormai non ti dico, se è quello, se non è quello. Perciò, ripeto, a Cattabagli in campo là, di su Alfredi. Questo è un paese, ragazzi. No, perché non tutti si aprono le... L'altro giorno c'era un altro tipo in cam, non è italiano, ha uscito in mano. Ma da noi, la mette nella roba nostra. No, no, l'ha bannato Samuel. Se poco fa ne ha bannato un altro, Franco. Ha tentato con un nick, porco Dio, viva Satana, che sta bannato subito. Solo io l'ho vista. E capita, si mettono in camera qua. Però facevamo un fesso, non da lui però, da vita terremoto. Questo poi va via la... Radio Custodia, la custodia. Veramente, un coso... cioè, la curiosità l'ha preso per la campa. Perché capitano queste cose. Noi non erano lui soprattutto. C'era una custa di pelle che io vedevo la cusuppa. Sì, avrei voluto vedere. Va bene, ok, io passo, va bene, lascio acceso qua comunque, semmai dopo ci facciamo le chiacchiere. Tanto sto facendo queste prove con l'amplificatore, per vedere se... Oh, se va tutto bene. Ok, lascio stare così, dove se si scalda, se ci sono anomalie, ma non credo perché... Mi sto ascoltando e la radio è perfetta. Vabbè, questi sono amplificatori fatti apposta per queste radio. Sono 100 watt d'ingresso, quindi non problem, va bene. E quindi a mare ne fa l'antenna e come vento l'altro giorno era brutto. Sì, sì, infatti. Era a posto, lei mi si è spezzata tra la... Il resto è la base, da quel pezzo lì, qua diventa Mario, e tu lascio un'antenna lì, la metti a posto, ti conviene comprare la nuova e via, tra piazzi. Mi serve una volta e poi sali fra 20 anni. Cioè, la stessa lavoro che ho fatto 20 anni fa, e si un signore tu. Questa lì è la carta di nuova antenna, lui. Non conviene, là. Assolutamente, voglio mettere la nuova e via. Io sto pensando che la mia, di buttarla giù e comprarla la nuova, perché l'attacco del piede non qui sono più tranquillo che va bello. Adesso vediamo un po', ma la ordino, ma la cambio, mi compro una sopra uno. Il lavoro è appena fatto un po' buono. Se vuoi fare un lavoro facciamo, così si mette anche un bel di polo a 5 bande, non hai problemi. Ti fai anche una carrellata ogni tanto ad ascoltare, a fare. È sempre meglio averlo un di polo che ti dà la possibilità di seguire un po' tutte le bande amatoriali. È meglio averlo. Però bisogna aspettare il tempo buono. Anche io ce la fai dei lavori, però devo aspettare il tempo buono. Non posso mettermi a fare lavori, poi ci mette vento, c'è visto, c'è freddo, non fa. Va bene, dai, passo di là e mando un saluto a Franco. Già, comunque lascia acceso, abbassa il volume, lascia acceso, se ti vuoi dire qualcosa già ti mando un messaggio come ho fatto prima, ok? Lascia acceso anch'io, va. Così non è caldo, sennò poi ci vuole Gesù Cristo a farlo scaldare. Va bene, Cla, va bene. Cappa, l'ascolto.